Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it. La rosa purpurea di Franco D'Assisi. E ben ritrovati come ogni sabato all'appuntamento con il cinema di Radio 24. Un saluto da Franco D'Assisi, la nostra ora di cinema bella densa di film, di ospiti, di notizie, di profili, anche di grandi riscoperte del passato. Una settimana con molti film in uscita, con qualche film importante almeno per quanto riguarda la nostra cinematografia, come Lacci di Daniele Lucchetti, con un grande film che arriva dalla Francia che si intitola Roubaix, una luce. Film veramente notevolissimo, sicuramente il film della settimana, ma come dicevo, ospiti, parleremo di una ragazza che 90 anni fa faceva per prima parlare il cinema italiano, Dria Paola, un'attrice che con il suo film La canzone d'amore, la canzone dell'amore anzi, fu appunto la prima nel cinema sonoro italiano, la prima diva del cinema sonoro italiano. Ne parleremo perché Rovigo, la città di cui era originaria, le dedica un bellissimo omaggio. Insomma, abbiamo tanta carne al fuoco e cominciamo subito con la prima delle proposte nuove di questa settimana in sala. E il film è diretto da Alice Weddington e si intitola Paradise Hills. C'è nessuno? Buongiorno, Uma. Aspetti, dove mi trovo? Sei in paradiso, ovviamente. Cos'è questo posto? Questa è la tua opportunità, Uma. Le nostre famiglie ci hanno mandate qui per costruirci a loro immagine. Serve a riconoscere la propria storia, per ricordare chi sei veramente. Non devi cambiare chi sei, Uma. C'è sempre un modo per ottenere quello che vuoi. Le sonorità anche abbastanza inquietanti di questo film Paradise Hills, un film che ci trasferisce nel più classico dei futuri prossimi, ma ovviamente distopici, quindi in una situazione che non vorremmo vivere, così come non la vorrebbe vivere la protagonista Uma. Il film prende le mosse dal suo matrimonio, tutti si complimentano con lei perché ha un atteggiamento positivo e anche nuovo rispetto al suo carattere solito, così anche questo refrain ritorna più tardi quando si ritrova a letto con suo marito, che le fa notare di essere molto più ubbidiente di prima. E allora a questo punto il film ci porta 2 mesi indietro, in una mattina in cui Uma si sveglia in una strana stanza prima di rendersi conto di essere stata intrappolata su un'isola chiamata appunto Paradise. Cos'è successo in quei 2 mesi? Cos'è successo su quell'isola? Perché tutti la vedono più accondiscendente e più adatta, diciamo così, a quelle che sono i voleri e i desiderata di chi le sta di fronte? È un po' il plot iniziale, appunto, quello che muove questo film, del quale vogliamo parlare subito con Boris Sollazzo, che è in collegamento con noi. Ciao Boris. Buongiorno Franco, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, una storia, appunto, ancora una volta il cinema recente, soprattutto la fantascienza, appunto cosiddetta distopica, ragiona e lavora sul tema del carattere, sul tema della formazione del carattere della persona. Per esempio, quest'estate era uscito quel film Little Joe, te lo ricorderai, anche lì si lavorava con questa pianta che metteva un po' tranquilli tutti. Ecco, c'è ancora in questo una riflessione, come viene sviluppata? Raccontaci un po' di questo film. Sì, difficile non pensare anche a film come The Lobster, all'ossessione che si ha per il ricondizionamento mentale di chi non è conforme. Peraltro Paradise Hills è molto affascinante perché attinge nella nostra memoria storica a tutte quelle donne che sono state rinchiuse in manicomi solo perché appunto non conformi a quello che le convenzioni sociali volevano per loro, non madri di famiglia, non capaci di vivere la vita sessuale castigata che tutti si aspettavano da loro, e via così dicendo. Ed in effetti quella che in Paradise Hills troviamo, questa duchessa che tiene questo collegio per donne fuori dalla norma, fuori dalla normalità socialmente accettata, ne rappresenta in chiave moderna, in chiave fantasy e anche un po' horror, esattamente una perfetta realizzazione, una perfetta racconto di finzione passione però radicato in quello che purtroppo per anni è stato una caccia alle streghe, anche in alcuni momenti del Medioevo letteralmente parlando. È affascinante che questo film estremamente femminista ed estremamente femminile sia sì diretto da una donna, tra l'altro il suo esordio molto maturo, sia sì con tutte le protagoniste donne, tra cui Mila Jovovich, a cui è bastato vedere i disegni della regista, che nasce come storyboarder per poi decidere di mettersi in una produzione completamente europea, anzi completamente spagnola, anche se poi troviamo anche Emma Roberts, però ha negli sceneggiatori, in una sceneggiatura che secondo me a livello ideale, a livello di racconto e di soggetto è davvero molto solida, a livello insomma di continuità narrativa e di, nell'ottenere sempre un ritmo di racconto perfetto invece non è così positiva, però è scritta da due uomini, ma con grande sensibilità ne nasce un lavoro che ha un'estetica quasi steampunk, che di sicuro strizza l'occhio a serie TV come Handmaid's Tale, che usa la storia in costume per costruire una produzione che in realtà è molto meno ricca di quello che ci appare, ha una grande professionalità nelle attrici che entrano perfettamente nel film, nel racconto, che ha nella sua seconda parte anche un paio di notevoli colpi di scena. Quello che ne esce è l'esordio che tutti vorremmo, perché anche con le sue imperfezioni, anche con alcuni momenti di caduta di stile sia estetico sia forse etico, siamo in presenza di un film ambiziosissimo, di un cast diretto da una ragazza e all'europea, insomma, nonostante il cast sia hollywoodiano, e finalmente una declinazione del tema femminile e femminista non ideologica, cioè riesce a costruire un racconto di finzione, soprattutto di genere, mantenendo fortissime le istanze ideali ma non perdendo la capacità di intrattenere, e questa è una cosa veramente straordinaria. E allora, questo è Paradise Hills, il film con cui apriamo questa nostra trasmissione. Avremo altre novità di cui parlare fra poco. Noi salutiamo Boris Sollazzo. Ciao Boris! Alla prossima settimana e buon cinema! E allora, abbiamo cominciato con Paradise Hills, proseguiremo fra poco con un bel collegamento, perché ci sono un paio di film francesi interessanti di cui parlare, ma soprattutto c'è da parlare di quello che sta succedendo in Francia rispetto alla questione Covid, distribuzione, come i film stanno arrivando nelle sale, e fare un po' un paragone. Lo faremo con una collega, Marzia Gandolfi, che in Francia ci vive e ha visto tanti film nuovi, che tra l'altro arriveranno anche nelle nostre sale fra poco, dopo la viabilità. Intimissimi uomo. Boxer a 7,90€ nei negozi e online. Vi presenta La Rosa Purpurea. Commissario Dauda Centrale, c'è un veicolo in fiamme, Rue de Grand Chemin, vicino al Civico 100. Voglio anche l'autorizzazione della scientifica. Entro un'ora. Ricevuto forte e chiaro. Buon Natale, capo. Buon Natale anche a voi. Va bene! Va bene! Dammi le mani adesso. D'accordo. Perché corri, Farid? Vengono qui solo per 20 euro. L'anno scorso sono venuti 5 volte. Dai, siete. Una notte di Natale particolare, quella che vive il commissario Daou, in una roubée vuota, spoglia, violenta, povera, impoverita dalla crisi economica, quella che una volta era una perla del tessuto industriale francese. Notte di Natale, appunto, col commissario Daou, che, come avete sentito, riceve segnalazioni, macchine in fiamme, assalti, piccole rapine. E in mezzo a questo mondo che Arnaud de Plessen ci racconta e che gli serve per creare lo sfondo per il racconto principale di questo straordinario film, Roubaix, une lumière, titolo originale, Roubaix, una luce, il titolo italiano. E dicevo, in questo sfondo a un certo punto irrompe un omicidio, irrompe l'omicidio, la morte di una anziana signora, un'ottantenne, che viene brutalmente assassinata nel suo appartamento. Il capo della polizia è uno molto sensibile, molto capace di percepire chi dice la verità e chi non la dice, ma porta avanti il suo lavoro lontano dagli schemi e dagli stereotipi del poliziotto fisico, anzi un poliziotto quasi gentile, dai modi garbati, pieno di pietas umana. Le sue attenzioni a un certo punto si concentrano sulle due vicine dell'anziana signora. Ha visto qualcosa? L'ho già detto ai suoi colleghi, dormivo. Lei vive da sola? Con un'amica. Buongiorno. C'è mai stato qualche problema con ragazzi che vengono qui a spacciare? Di ragazzi che fanno casino? Sapresti riconoscerli? Io ho un bambino di 6 anni. Se li riconoscessi non lo direi. È stato il numero uno. Credi di potermi incastrare per un crimine? Bruciare una casa è un crimine. Ma sulla testa di mia sorella, non l'ho bruciata io! Dimmi, hai dei sospetti sulla casa bruciata? Sì, più o meno. Lei capisce subito se uno è colpevole o innocente. Certo. E le indagini proseguiranno, e questo poi è il cuore del film, anche se durante le indagini per capire chi abbia ucciso l'anziana signora succedono altre cose, succedono ancora cose collaterali in questa Roubaix che sembra non fermarsi mai nel proporre storie di miseria e di crimine a questo poliziotto e a questa equipe, diciamo, di poliziotti. È un film molto particolare nel processo, proprio nella capacità di racconto e anche nello stile narrativo, come dicevo, molto morbido, con una musica molto intima che porta lo spettatore quasi a non aspettarsi i soliti colpi di scena o le solite svolte, ma a mettersi completamente e costantemente nei panni degli occhi di questo straordinario ispettore carismatico che ha il volto di Rushdie Zem, tra l'altro César per il migliore attore, gli Oscar francesi 2020, proprio per questa interpretazione. Di candidature ne aveva 7 il film di Arnaud Desplechin, mentre le due donne giovani alcolizzate, sempre sull'orlo di una crisi personale, sono Léa Seydoux e Sara Forestier, altri due nomi importanti del cinema francese, per quanto riguarda Léa Seydoux anche del cinema internazionale. È veramente una passeggiata intima quella che ci propone Arnaud Desplechin, rompendo tutti gli schemi di un polar francese del quale questo film mantiene alcune cose, mantiene il tono, se vogliamo, ma non sicuramente i crismi narrativi. È un film particolare, un film anche nuovo in un certo senso, quello che ha firmato Desplechin. Noi siamo in collegamento con Marzia Gandolfi, che è una collega, come ho detto in apertura, che a Parigi ci vive parecchio, che ha visto molto cinema francese recentemente, per questo l'abbiamo chiamata, ma io ho visto che abbiamo Marzia Gandolfi e so che ne hai scritto su MyMovie, sul sito sul quale scrivi. Volevo chiedere anche a te se sei d'accordo sul fatto che, per come stanno andando le cose, questo Roubaix è uno, forse il primo film che potrebbe contrassegnare un pochino questa stagione. Assolutamente sì, l'hai illustrato benissimo, quindi aggiungerò poche cose, nel senso che, permettetemi un gioco di parole, lo chiamerei la stella polare di Arnaud Desplechin, perché, come raccontavi bene, ha sicuramente questo film il tono poliziesco, ma in realtà quello che racconta non troppo nel fondo è la miseria sociale umana, a partire appunto da un fatto macabro, da un omicidio. Soprattutto questo film, sarai d'accordo con me Franco, a me ricorda, avendolo visto in un'edizione fisica di un festival di Cannes precedente, in realtà di non troppi anni fa, ma che sembra, dopo la crisi del Covid, un tempo lontanissimo. Mi sembra davvero che questo titolo, Roubaix, un lumiere, indichi davvero la stella polare, la luce per tornare in sala in Francia come in Italia, anche se in Francia al momento le cose non vanno benissimo, e quindi sia questo ovviamente è un film già uscito e consumato nelle sale francesi, ma spero che abbia lo stesso successo, lo stesso impatto anche sul pubblico italiano. Certo. Ecco, sai che tra l'altro mentre parlavi mi veniva in mente un altro film, ti sembra un accostamento, dimmi cosa ne pensi, forse un po' azzardato, mi ha ricordato in certe cose, proprio per quel racconto del tessuto sociale fatto in questo modo, mi ha raccontato Gran Torino di Clint Eastwood. Lì c'era il racconto di una Detroit in crisi che aveva perso i punti di riferimento e di un'umanità che ne aveva pagato le conseguenze, qui anche, se vogliamo, certo Roubaix non è Detroit, ma sono due film che si parlano in qualche modo. Ma io lo trovo più in realtà non sono pienamente d'accordo, ma comprendo bene quello che dici, lo trovo più dostoevskiano come film, E poi sì, secondo me la grande differenza, ovviamente, però laddove sono simili due film ma diversi, è che sono fortemente radicati in un territorio che in questo caso Arnaud Desplechin conosce perfettamente perché è la sua città natale, e quindi in questo senso sì, non... È un accostamento così che mi veniva in mente. Ti volevo chiedere, hai sfiorato Marzia? No, azzardati sono gli stili, semplicemente sono diversissimi. Assolutamente, sotto quel profilo, certo, non c'è assolutamente niente in comune. Però Marzia, mi interessava questa cosa che tu hai affrontato prima, hai sfiorato prima. Dicevi per provare a far tornare la gente nelle sale in Francia. Evidentemente abbiamo un problema non solo qua in Italia, ma evidentemente lo abbiamo anche in Francia, lo abbiamo un po' in tutto il mondo, quello di convincere la gente che il cinema rimane uno dei posti più sicuri, tra l'altro, in cui si può stare in questa fase. Ecco, tu hai visto molti film in questi ultimi tempi in Francia. L'anno scorso è stato un anno straordinario, secondo me, per il cinema francese, per il prodotto medio francese, capace di sfornare continuamente film di grande gradevolezza, di grande intrattenimento, ma anche di grande qualità. Ecco, voglio far sentire intanto un accenno della clip di un film che si intitola Les choses qu'on dit. Sentiamo. Qu'est-ce que je me sentais bien avec toi? Mais c'est vrai, j'avais pas d'attirance. C'était vraiment plus qu'impossible de m'imaginer être avec toi. Pourquoi c'est impossible? Parce que tous les gens autour de moi me voyaient bien avec toi. Ecco, questo è appunto Les choses qu'on dit. Chiaramente il trailer è in francese perché il film non è ancora distribuito in Italia. Insieme ad Antoinette Caven, spero di avere pronunciato bene, se no tu mi darai 5 in francese. Però quello che mi interessa è che questi sono due film che sono usciti in Francia con la Cannes Label, cioè con l'etichetta della Palma di Cannes. Sapete che Cannes quest'anno non ha fatto il festival in presenza, però ha detto: noi assegniamo il nostro logo a chi sarebbe stato degno del nostro festival, e questo logo può essere esposto. Una manovra che ha suscitato anche molte polemiche, Marzia, che però in Francia evidentemente sta accompagnando nelle sale questi film. Raccontaci un po' come sta andando lì la questione Covid. Esattamente, una manovra che torna utile soprattutto adesso, perché la situazione al momento è delicatissima, perché ieri Olivier Véran, il ministro della sanità, ha deciso di imporre nuove restrizioni a Parigi e almeno altre città francesi. Quindi probabilmente da lunedì a Parigi chiuderanno di nuovo i bar e i ristoranti, non i cinema. Questo perché c'è stato un aumento del numero delle persone diagnosticate, e soprattutto perché la situazione degli ospedali francesi è tesa, con il 35% dei letti della rianimazione occupati già dai pazienti Covid. Quindi qui è successo che il 22 giugno, con grande entusiasmo ma anche con grande ansia, come in Italia e in altri, insomma, nel mondo, hanno riaperto le sale. E la Francia, dicevi bene, non solo ha vissuto una grande stagione, ma lo scorso anno si è confermata di nuovo una nazione, la nazione comunque francese, il popolo più cinefilo. È tornato in sala, però nonostante tutto cinema storici come le Grand Rex quest'estate a Parigi hanno chiuso, e questo è un evento quasi assolutamente incredibile. Detto questo, però, un tono per ridare un po' un tono di leggerezza, non solo parliamo di due film che sono tutt'altro che leggeri, però predispongono, sono due film da cui si esce col sorriso, però come dicevi bene, queste due opere sono pescate dalla selezione ufficiale dell'edizione che non si è, appunto, la 70esima, che non si è svolta, e sono due dei 56 film appunto selezionati che si avvalgono di questa etichetta, di questo marchio. Questo sicuramente aiuta gli autori meno conosciuti. Antoinette dalle Seven è una meravigliosa commedia rurale di Caroline Vignal, che si svolge nel Parco Nazionale delle Seven, come indica il titolo, e che accolgono appunto questa protagonista alla ricerca disperata del suo amante. L'Antoinette del titolo, brevemente, è un insegnante elementare che ha una relazione con un uomo sposato. Questo uomo sposato è il padre di una sua alunna. Convinta di passare l'estate tra le braccia di questo amante, in realtà l'amante ha altri programmi con la famiglia nelle Seven. E invece Les choses qu'on dit, Les choses qu'on fait è un film più serio, un dramma sentimentale, Al centro ci sono un uomo e una donna che si raccontano in un paesaggio anche qui bucolico i rispettivi scacchi sentimentali. Lui è Maxime, un traduttore che sogna di scrivere il suo primo romanzo, e Daphné è una sposa novella che in attesa appunto di un bambino. Il loro incontro genera due linee narrative e dei flashback dove abitano ovviamente i loro mancati amori e si muovono altrettanti personaggi. E allora, tanto cinema francese, tanto buon cinema francese, anche quest'anno, anche questa stagione, sembra promettere bene, e aspettiamo che questi film arrivino da noi per poterli vedere. Grazie Marzia Gandolfi, ci sentiamo qui alla Rosa Purpurea prossimamente. Grazie a voi, ciao Franco, ciao a tutti. E questo è un po' il quadro di come stanno andando le cose in Francia, partendo dal cinema francese che arriva in Italia, Rubé et une Lumière, e poi appunto le novità e la situazione in Francia. Noi dobbiamo giocare insieme perché siamo arrivati ad ascoltare la prima traccia del film misterioso di oggi. Ma tu sei pazzo, chi le da spietta? Senza te non si firma contratto. Signori, e diteglielo voi, chissà se non parte con meno guai. Avete già indovinato, avete già individuato il personaggio, abbastanza facilmente individuabile, devo dire. E allora, il titolo del film e il vostro indirizzo alla Rosa Purpurea, @radio24.it, perché ci sono due Blu-ray che vi aspettano di questo film, di cui fra poco vi facciamo ascoltare un'altra traccia. Adesso, linea alla regia, fra poco è con noi Daniele Lucchetti per raccontarci il suo Lacci. La Rosa Purpurea. Sono stato con un'altra. Quello che ti è successo può succedere. Noi abbiamo fatto un patto quando abbiamo deciso di andare a vivere insieme. Te lo ricordi o no che abbiamo fatto un patto? Se ti sei innamorato, cambia tutto. Se dici ora la verità, tu salvi la vita a tutti. Ti sei innamorato? Queste sono le note per chi non è più proprio giovanissimo, diciamo, del Let Kiss, che era un ballo, insomma, della fine degli anni 60, inizio anni 70. Vado un po' a memoria, ma lo ricordo da bambino, ed è una musica ricorrente dentro il film di cui vogliamo parlarvi in questo inizio di terza parte della Rosa Purpurea, che è Lacci, il ritorno in sala di Daniele Lucchetti alla regia. Una storia di due tempi e due personaggi, anzi quattro personaggi principali, appunto prevista e spalmata su due epoche temporali completamente diverse. Cominciamo con un momento difficile perché attraversa una famiglia, quella di Aldo, che racconta e spiega così il suo tradimento alla moglie Wanda. Bello, squallido, no, eccitante, me lo devi dire, smetti, me lo devi dire. Ma vuoi affrontare almeno una volta una cosa razionalmente, invece no. Queste scene ridicole. O te ne vai tu, o me ne vado io. Vattene, ho il diritto di stare da sola, vattene. Andarsene, restare, chi deve restare, chi deve andare, e di mezzo due figli, Anne e Sandro, che coveranno da quel momento un rapporto sicuramente non sereno con tutti e due i genitori in qualche modo, imputando tanto al padre quanto alla madre qualcosa che non è andato in quella storia. Il protagonista, Aldo, sceglie di stare con una sua collega, un carattere più morbido, al suo fianco, appunto Livia. Ritroviamo questi personaggi tanti anni dopo, li ritroviamo con i volti di due attori diversi, ma li ritroviamo alle prese con quel passato che in fondo non è stato mai risolto, e anche i propri figli sono cresciuti e sono cresciuti con una sorta di desiderio di rivalsa. Quello che possiamo dire del film è questo, perché ci sono colpi di scena dentro Lacci di Daniele Lucchetti, che è in collegamento con noi. Ciao Daniele. Buongiorno, ciao, ciao, ciao. Grazie per essere qui con noi, La Rosa Purpurea. Allora, ricordiamo il cast straordinario: Álvaro Orvácar e Luigi Locascio nei panni di Aldo e Wanda Dantan, diciamo così. E poi nei giorni più vicini a noi, Laura Morante e Silvio Orlando, poi Giovanna Mazzogiorno, Adriano Giannini, Linda Caridi. Un cast, come dicevo, piuttosto importante, denso e anche abbastanza collettivo. Ecco, cosa ti ha spinto a tradurre in immagini questo romanzo, questa storia? Cosa ti ha colpito dentro? Qual è l'elemento che hai voluto raccontare, che hai sentito più universale, più di attualità? Io pensavo che fosse una storia nella quale ci si può attorno identificare in ognuno dei personaggi, perché il tema della separazione, il tema del restare insieme, il tema della separazione dei genitori, dei propri genitori, o anche l'essere genitore e allo stesso tempo essere o vittima di una slealtà o sleale a sua volta. E tutto questo sono parti delle nostre vite, sono eventi che attraversano o da vicino o da vicinissimo le nostre vite sempre, e questo, leggendo il romanzo di Starnone, mi ha creato una forte identificazione che ho cercato di riraccontare con gli strumenti del cinema in questo film. Ecco, c'è anche un po' un'analisi, più che una messa in stato di critica, diciamo così, ma proprio un'analisi di quello che è una cosa che oggi forse viene anche considerata, se non impossibile, molto molto difficile, quella della lunga convivenza. Cioè, è un precetto che nel dopoguerra, in un'Italia più contadina, anche forse più cattolica, chiaramente era un precetto saldo e sacro, e che invece ai tempi nostri sembra quasi scientificamente provato non possa funzionare. In fondo Aldo e Wanda si lasciano perché è troppo tempo che stanno insieme, è così? Non è solo questo, in realtà. Io quello che penso c'è anche questo, ma non è solo questo. In realtà ognuno dei due personaggi ha una forte immagine di se stesso che l'altro gli conferma, nel bene e nel male, ma soprattutto nel male. Aldo è un uomo che aneva, se vogliamo, la libertà, anche se questa frattura con la propria famiglia può provocare dolore, ma poi rientra in una zona, in una relazione che conferma l'immagine di se stesso prigioniero, che evidentemente gli torna di più, chissà perché, col proprio vissuto, col proprio essere. E Alba Wanda è un personaggio che pensa che la lealtà sia il centro di tutto, ma poi si va a incastrare in un rapporto che non, in qualche maniera, le restituisce l'immagine di carceriera di qualcun altro, di qualcos'altro. E nessuno dei due vuole questa immagine orribile di se stessa, eppure ci casca dentro con tutte le scarpe. E dentro ci sono anche i figli, ecco, questi figli che crescono con un desiderio di rivalsa, interpretati da Giovanna Mezzogiorno e Adriano Giannini nei giorni nostri, diciamo così, che sfocia in qualcosa di veramente forte, quasi eccessivo, no? Beh sì, diciamo, il film, senza svelare cosa accade, crea frustrazione nel pubblico e poi alla fine crea anche uno sfogo a questa frustrazione, una violenta uscita dal film. Non posso raccontare tanto, però sì, assolutamente spero che il sentimento che viene catalizzato durante il film, viene accumulato durante il film, venga poi sciolto e catartizzato nel finale del film. C'era una volta, Daniele, il pubblico e il privato, no? Nel 68 si diceva che in fondo il pubblico è privato, che il privato è politico. Oggi sono, secondo te, due cose molto separate? Diciamo che forse le posizioni degli anni 60 e 70 erano molto ideologiche, e io ho tolto dal libro, ho fatto questa scelta di togliere gli anni 70 come anni in cui si ridiscuteva se stessi dalla narrazione, perché mi sembrava più interessante che i personaggi fossero responsabili delle loro azioni e non governati dall'aria del tempo, e questo rende, spero, il film più leggibile anche ad un spettatore contemporaneo. Però sì, è l'area del tempo comunque c'è, se non altro nel fatto che il personaggio di Wanda e la moglie non si pone il problema se il marito si è innamorato di un'altra, si pone il problema che il marito è stato sleale. Allora, quando tu non accetti l'altro che sta cambiando, che è in trasformazione, che non ha saputo mantenere la parola data, e lo vuoi ridurre ad un come dire, ad una promessa fatta e non scioglibile, vuol dire che tu in qualche maniera stai facendo qualcosa che non è l'area del tempo, ma è un difetto di fabbrica che gli umani hanno, quello di non saper riconoscere nell'altro il possibile cambiamento. Anche voi, se volete, potete fare qualche domanda a papà, eh? Papà, come stai? Cosa fai? Come passi le tue giornate? È vero che gli hai insegnato tu ad allacciarsi le scarpe? Nessuno si allaccia le scarpe come me le allaccio io. Che, come te le allacci? Se le allacci in modo ridicolo. Non ci credo che pure tu fai così. Io penso che me le allaccio come tutti gli altri. No. No? Facci vedere. Una delle scene più interessanti e anche divertenti in qualche modo in questa trasmissione di un gesto quotidiano che è l'allacciare le scarpe, che però è una delle cose che contrassegna un momento di crescita quasi di un bambino, no? L'essere diventato autonomo rispetto anche a quel gesto. Daniele, ti voglio fare un'ultima domanda. Oltre 350 sale in tutta Italia per Lacci è uno dei film italiani a cui si appoggia e ci si affida per questo tentativo di ripartenza faticosissimo delle sale al chiuso, dopo qualche speranza generata da film come Tenet, le cose si sono un pochino più accartocciate, però questa settimana è stata una settimana nella quale sono stati annunciati gli arrivi di film importanti anche nei prossimi mesi, e questo Lacci è un film importante italiano. Cosa rappresenta per te tornare a farti vedere nella sala in un momento come questo? Ma guarda, io penso che siano stati molto generosi produttore e distributore 01 Beppe Caschetto a mettere a disposizione il film alle sale in un momento in cui si sa che non ci sarà lo stesso tipo di risultato che si sarebbe potuto avere tempo fa. E il film oggi è il secondo giorno ed è ai primi posti in classifica, perché è secondo in classifica negli incassi, quindi questo è positivo, ma sono incassi molto ridotti. Questo che significa? Significa che la produzione e la distribuzione credono tantissimo nel riattivare il meccanismo di fiducia che c'è tra pubblico e film, e sono stati, come dire, quasi quasi commoventi nella loro disponibilità di permettere questo film che è costato molto, ci crediamo molto, e devo dire che fosse stato per me avrei dato tranquillamente il film a qualche piattaforma, forse l'avrei fatto uscire più avanti quando le cose si fossero sistemate, però adesso che questo è avvenuto ne sono veramente orgoglioso. E allora, grazie a Daniele Lucchetti, nelle sale cinematografiche italiane c'è Lacci. Grazie Daniele, a risentirci. Grazie a te, ciao Tessa. Daniele Lucchetti ci ha raccontato il film con questo cast importante: Alvaro Orvacher, Luigi Locascio, Giovanna Mezzogiorno, Adriano Giannini, ancora Silvio Orlando e Laura Morante. Noi giochiamo insieme con la seconda traccia del film misterioso di oggi. Senti, queste sono greche, Grechi! Ma dai, sono grechi! Sono buoni. Come sono? Dì la verità! Sono greche. Le olive greche, quale film vi fanno venire in mente? Se l'avete già individuato, scriveteci alla rosa purpurea @radio24.it col titolo del film e il vostro indirizzo. Ci sono due copie in Blu-ray, è una novità in Blu-ray questo per la prima volta. Fra poco vi sveliamo tutto. Adesso linea alla viabilità, torniamo insieme fra poco con le segnalazioni di film TV e con il ritratto di una grande diva del muto che 90 anni fa sbarcava nel sonoro, faceva sbarcare il cinema italiano nel sonoro. Si chiamava Dria Paola. Fra poco. Intimissimi uomo, boxer a 7,90€, nei negozi e online. Vi presenta. Promo 24. Piemonte bellezza singolare. Scopri i borghi storici e siti UNESCO con le residenze barocche. Piemonte libertà singolare. Immergiti in panorami unici. Esplora le 96 aree naturali protette. Scegli il tuo itinerario sui 20.000 km di percorsi a piedi o in bici. Piemonte gusto singolare. Assapora l'autunno col tartufo bianco d'Alba e i grandi vini di 18.000 cantine. Piemonte spirito singolare. Vivi i percorsi dell'anima, i sacri monti, la via Francigena e le sinagoghe. Il Piemonte che non ti aspetti, scoprilo su visitpiemonte.com. La rosa purpurea. Dunque, è avvenuto qualche cosa di nuovo nella tua esistenza? Un altro amore? vero? Un altro amore. Un altro amore che occupa tutta la mia vita. Tu non puoi comprendere. E questo amore, Rufo, sarebbe stato un grande ostacolo tra noi. Tu sei un artista. Parole, parole. Tu non hai nemmeno il coraggio di spiegarti. Tu mi hai sempre mentito. Ecco la verità. Io ho creduto in te e tu hai distrutto tutto quello che di meglio vi era nel mio cuore. La fede, l'entusiasmo. Enrico! Basta! Enrico, Enrico! Era importante farvi sentire tutto questo documento in apertura della quarta parte della Rosa Purpurea perché è estratto dal primo film italiano sonoro della storia. 1930, la canzone dell'amore, tra l'altro la canzone dell'amore è quella che avete sentito solo per te Lucia, che diventerà poi un super classico della musica italiana, cantato anche da Claudio Villa negli anni successivi, ma questo film è stato il primo film sonoro italiano, appunto era il 1930, da poco con il cantante di jazz il cinema aveva trovato la voce e la prima voce femminile del cinema era stata quella di Dria Paola, che avete sentito qui duettare in questo duetto molto stentoreo nella recitazione, molto pieno di quella drammaticità tipica degli anni 30, duettare appunto con il protagonista maschile. Perché vi parliamo di questo? Perché sono passati intanto 90 anni e quindi è 90 anni che il cinema italiano parla e questa cosa andava festeggiata e celebrata in qualche modo, e perché a celebrarla e festeggiarla ci sta pensando la città di Rovigo, perché Dria Paola, appunto l'artista, l'attrice che avete sentito, era nata a Rovigo e ha avuto poi un percorso professionale importantissimo, tra l'altro una vera diva dei suoi anni, con anche partecipazione e collaborazione, addirittura scoperte in qualche modo con gente come Totò e Anna Magnani, per intenderci. Ora, a questo personaggio sono state dedicate diversi momenti importanti durante questa estate, anche grazie alla passione con cui l'ha seguita un amico, un collega come Massimo Veronese, ma noi siamo in collegamento con Angelo Zanellato della Polesine Film Commission, perché è proprio la Film Commission che si è messa di buzzo buono a cercare di chiudere un po' questi festeggiamenti. Il 7 ottobre, mercoledì 7 ottobre, sulle due torri di Rovigo verranno proiettati da una parte il film La canzone dell'amore e dall'altra un videomapping delle immagini più belle e significative di Dria Paola. Io saluto Angelo Zanellato in collegamento qui con noi alla Rosa Purpurea. Salve! Salve, buongiorno. Allora Angelo, un bel personaggio questa Dria Paola, dicevamo prima, tante collaborazioni, raccontacela un po'. Sì, è una ragazza che ha avuto una storia un po' particolare, diciamo. E però nella sua attività artistica, come diceva, ha collaborato con Totò, Alberto Sordi, Maccario, La Magnani e altri naturalmente. Ed è una ragazza che è rimasta un po' nell'oblio in questi anni. Noi stiamo cercando di valorizzarla perché riteniamo che a questo personaggio debba essere dato il giusto riconoscimento e quindi anche una sorta di intestazione di una via, di una piazza, una cosa del genere. Assolutamente, anche per non dimenticare proprio il percorso di Dria Paola, che tra l'altro morì appunto dimenticata, tra l'altro usufruiva della legge Bacchelli, morì anche in condizioni di semipovertà in qualche modo, e però ciò nonostante Rovigo se la ricorda oggi. Ecco, che tipo di operazioni farete per tenere vivo, appunto lei diceva intitolare una via, forse una piazza, questa serata del 7 ottobre? Ci racconti un po' come volete perpetuare la memoria di questo personaggio. Sì, le iniziative che ho messo in piedi quest'anno sono queste, naturalmente come accennavate voi prima, la presenza alla Rovigo Racconta col giornalista Massimo Veronese, e da dove si è fatto emergere questo personaggio anche a conoscenza degli stessi rovigini. Però il 7 di ottobre, proprio alle ore 21, proietteremo sulle due torri che sono poi il simbolo della città, questi due filmati, uno in bianco e nero senza musica e il videomapping invece realizzato dai ragazzi del Conservatorio di Rovigo. quali hanno una sezione applicata per la musica da cinema. E quindi pensiamo che questo sia un primo importante segnale di Rovigo Città, ma del Polese, a questa grande artista. E allora, bene, bene così, Angelo Zanellato, presidente della Polesine Film Commission, ricordiamo l'appuntamento a Rovigo, abbiamo tantissimi amici e tantissimi ascoltatori nel Nord-Est. Vale davvero la pena di andare il 7 ottobre a Rovigo alle 21, sulle due torri di Rovigo, a vedere questo omaggio. Adria Paola, la ragazza che fece parlare il cinema italiano. Grazie Angelo Zanellato. Grazie a voi. E con Dria Paola, con questo omaggio, un'attrice dimenticata ma molto importante storicamente per il cinema italiano, noi andiamo avanti come sempre, ricominciando ad ascoltare la clip con cui avevamo giocato con il nostro film misterioso 7 giorni fa. Rupert deve capire cosa significa una mia sconfitta. Gretchen Carlson può uccidere Fox News. Questa è una battaglia per il vostro lavoro, perché io affondo con voi. Si trattava di Bombshell, il film con le tre bionde del cinema contemporaneo, Nicole Kidman, Margot Robbie e Charlize Theron, film che hanno indovinato e vinceranno in versione Blu-ray Beatrice Benatti di Milano e Lorenzo Polenta di Roma. Noi ci facciamo raccontare questa uscita in Blu-ray da Giulio San Giorgio, direttore di Film TV. Ciao Giulio. Ciao Franco, un saluto ai radioascoltatori. Sì, dopo essere stato uno dei titoli bloccati dall'esplosione della pandemia, dopo essere è stato diffuso su Amazon Prime per i suoi abbonati, ecco in DVD e Blu-ray Bombshell. Un anno prima di Harvey Weinstein, Roger Ailes, direttore dell'ultraconservatore canale televisivo Fox News, fu accusato di molestie sessuali da Gretchen Carlson, ancora woman da poco licenziata. All'accusa si unirono altri giornalisti, tra le quali spiccava Megyn Kelly, star del network, che era appena incappata in un ruvido scambio di battute con Donald Trump, candidato presidente. Bombshell racconta il ribollire e l'esplodere dello scandalo dal punto di vista soprattutto delle tre protagoniste, tre meravigliose Charlize Theron, Nicole Kidman e Margot Robbie, che interpreta un personaggio fittizio. È un film dal passo spedito, tutto sguardi e monologhi in macchina, flashback e coralità di voci notevole. E questo era il nostro game della scorsa settimana, un'occhiata come sempre ai palinsesti in chiaro della prossima, dove troviamo su Rai 5 martedì 6 ottobre alle 21:15 un grande film di Laurent Canté, La classe. Se quello che devi dire non è più importante del silenzio, allora taci. Se soltanto Suleiman tu potessi scrivere cose così interessanti sul tuo foglio anziché sul braccio, sarebbe straordinario, no? Però pretende un po' troppo, ora ci dà giù duro. Non mi sembra affatto di pretendere troppo. Ma sì, no? Che lei pretende troppo lo pensano io tutti. Lo penso come lei. Sì, parliamo di un grande film del decennio scorso, Palma d'Oro nel 2008, Vita e problemi di una scuola elementare nel 20° arrondissement di Parigi, un affresco di una classe quarta paragonabile alla nostra prima liceo, dove ci sono solo francesi di seconda generazione con genitori immigrati da diversi paesi. L'insegnante Bogodot, praticamente nei panni di se stesso, affronta i problemi di tutti i giorni, incomunicabilità generazionale, anche culturale, a volte linguistica, ma anche attriti con gli altri insegnanti e con i genitori. Nonostante passione e determinazione non gli manchino, è lui il primo a non essere esente da difetti. Attenzione, sebbene il protagonista sia stato un vero insegnante, qui alle prese con esperienze reali, La classe non è un documentario. Tutto è stato infatti geometricamente ricostruito da Canté, Laurent Canté, la sua seconda grandissima prova dopo il bellissimo A tempo pieno. E allora, questa è la segnalazione di martedì. Invece venerdì prossimo, il 9 ottobre, sempre alle 21:15, ma questa volta su Cielo, rimaniamo al cinema francese e tratto da Simenon, c'è La camera azzurra. Vous reconnaissez cet objet, Madame Despierres? Je vous ai répondu que oui. Il s'agit de votre agenda de l'année dernière. Confirmez-vous que les dates de vos rencontres avec Julien Garrigue sont marquées d'un trait? Oui. Mais à la date du 4 septembre. Incarcerato e interrogato per una inchiesta sulla morte della moglie, un uomo evoca la sua relazione adulterina con un'amica d'infanzia che ha rincontrato casualmente. È l'adattamento di un omonimo Georges Simenon, Il lungo numero 6, di Mathieu Amalric, regista, un film su una camera fuori dal mondo, da cui il mondo però risulta chiarissimo, un momento d'estasi fuori dal tempo, dove c'è stato un delitto legato a quell'amore, c'è l'incedere di un interrogatorio che lo ricostruisce, ma la legge non sa trovare trovare la verità dei fatti, figuriamoci quella sfuggente, inesplicabile del sentimento, e figuriamoci la verità su quella camera blu. Un giallo sull'opaca ragione del cuore, prodotto da un grande produttore che è Paolo Branco, e si vede perché c'è grande economia di linguaggio, formato 4/3, ellissi, realismo pittorico, low budget, e sottrae per lasciare allo spettatore l'enigma delle cose. E questo è l'appuntamento allora con La Camera Azzurra su Cielo alle 21:15 di venerdì 9 ottobre. Grazie Giulio, ci sentiamo la prossima settimana. Ciao Franco, alla prossima settimana con le segnalazioni di Film TV. E siamo giunti alla fine della nostra trasmissione. Come sempre, prima di lasciarvi, vi sveliamo il film misterioso di oggi. Abbiamo giocato con Borotalco, un super classico di Carlo Verdone, che esce in Blu-ray. E allora settimana prossima vi diremo chi sono i nostri due ascoltatori che hanno vinto il Blu-ray di Borotalco. Appuntamento va a sabato alle 18 con tutto il cinema che c'è qui alla Rosa Purpurea. Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it.